mi racconti di te, di un mondo che fu, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare. Eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che tu avevi per me. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Ero un bambino, ma tu mi insegnavi a capire tutte le cose che tu sapevi da sempre. L'amore, l'amicizia, il dolore. Ricordo, le ho imparate da te. Vorrei